cazzo te ne frega del governo è caduto, che cazzo te ne frega se ieri sera hai tamponato, che cazzo te ne frega del tamarro da minchiato, che cazzo te ne frega se la tipa ti ha lasciato. Adesso ci saranno due pezzi e li dedichiamo a tutti i nostri amici, andando in ordine da destra verso sinistra, a Conchi, a Riku, a Marco, poi c'è anche Bea, c'è Sciacca, c'è Toma, c'è una Solea, vabbè, tutti quanti, dai. C'è anche Gerby, Falagario, quanta gente! Vabbè, andiamo. Quanti amici che abbiamo! Ok, togliamo Marco dalla lista che non è mio amico.